Radio 24 Reportage. Il calcio d'Europa dice no al razzismo. Di Dario Ricci. L'Europe du foot, de papa, mâle, machiste et blanche, c'est fini. Et Dieu merci, cela ne reviendra pas. L'inno della Champions League che risuona negli stadi d'Europa, la voce del presidente dell'UEFA Michel Platini che sancisce la fine di un'epoca del calcio, quello giocato da calciatori bianchi, nel segno di un marcato machismo. Due anime che si intrecciano, quelle del football continentale, che è business certo, ma non solo. La recente conferenza sul rispetto delle diversità nel calcio promossa a Roma dall'UEFA lo ha confermato. Oltre agli ingaggi milionari, i premi a 9-0, le luci e la ribalta dello show della pedata, c'è in Europa anche una miriade di microprogetti che hanno nel pallone lo strumento di dialogo, di lotta al razzismo e alla discriminazione, di inclusione sociale. Alcuni esempi? Basti pensare alla lotta dichiarata dalla Federcalcio olandese all'omofobia, con una campagna di comunicazione specifica e con una struttura dedicata a fornire supporto ai giocatori gay e lesbiche che vogliano fare coming out, oppure ai tanti programmi di inclusione delle donne nel mondo del football. Dalla Romania poi un altro esempio che fa riflettere. We somehow rejected the opinion of the local authorities, of the media, that were saying that it's impossible to change anything in this community. And we started with football. Ragula Negulescu ha raccontato come nella periferia degradata di Bucarest il pallone sia diventato occasione di integrazione per i bambini rom, con un progetto che ha unito gioco e supporto sociale. Insomma, tra tanto buonismo e non poca retorica, la conferenza di Roma ha avuto il merito di riportare alla luce il lato nascosto del pianeta football in Europa e di fare il punto sulle strategie di contrasto alla diffusione del razzismo e delle discriminazioni di genere. Come sottolinea Mauro Valeri, responsabile dell'Osservatorio sul razzismo e antirazzismo nel calcio. Intanto penso che al di là della retorica però è importante ogni tanto ribadire che la lotta contro il razzismo deve essere una lotta forte, condotta da tutte le persone che hanno in qualche modo sono chiamate in causa in quanto giocatori, dirigenti, e questo secondo me rimane comunque un messaggio molto importante che forse in Italia siamo anche poco abituati ad ascoltare. Sarebbe importante anche dei convegni su questo tema specificamente in Italia. È stato molto interessante secondo me soprattutto la parte delle buone pratiche, perché hanno dimostrato che si può fare qualcosa anche di significativo soprattutto nei confronti dei soggetti che sono spesso discriminati sia per in campo, come può essere per un calciatore nero oppure essere per un ragazzo, una ragazza omosessuale, ma anche il tentativo di far diventare il calcio uno strumento di inclusione di minoranze come per esempio i Rom, che tendenzialmente non hanno neanche diritto all'accesso alla pratica sportiva. Anche nella lotta alle discriminazioni nel calcio, spiega Carlo Balestri, delegato WISP e componente della rete antidiscriminazione Fare, c'è poi un'Europa a due velocità. Si va a due velocità anche in questo caso, per cui c'è un Nord Europa, soprattutto un'Inghilterra, una Germania, i paesi del Nord che su questo hanno comunque già segnato molti punti e hanno portato avanti delle politiche insomma quotidiane e anche abbastanza serie, hanno lavorato in maniera continuativa con le NGO, per cui le associazioni sul territorio che su questo sono competenti, e si è creato una bella sinergia. In Italia alcuni passi avanti sono stati fatti, però si lavora un po' più a pit stop, frenate brusche, ripartenze, così. Bisognerebbe da un certo punto di vista lavorare invece, cioè, e programmare in maniera più continuativa, e poi bisognerebbe avere anche un po' più di attenzione. Quello nord europeo è un modello davvero distante per un'Italia del football che, insieme ai progetti pur promossi da Juventus e Roma, è però ancora alle prese con l'eco negativa suscitata dalle frasi a sfondo razzista del neopresidente federale Tavecchio. Ancora Valeri. Allora, io penso che sia il modello da seguire sicuramente, perché è un modello che si basa molto sull'inclusione e soprattutto si basa su una presa di consapevolezza da parte di tutti, cioè appunto dalla federazione, delle federazioni nazionali, delle squadre e dei calciatori. Siamo un po' lontani dall'Italia, e forse l'unico elemento che fa un po' riflettere da questo, di queste due giornate, è forse un'Italia un po' troppo assente per tanti motivi. Però penso che questo modello di far diventare le società sportive dei soggetti di responsabilità sociale in prima linea, penso che sia la linea su cui dovremmo lavorare di più tutti quanti, anche gli stessi giocatori, anche i gruppi di tifosi, perché abbiamo anche una differenza che in molti casi i tifosi partecipano attivamente a tutte le attività anche contro il razzismo. In Italia questo invece è ancora un po' troppo lontano. Manca inoltre da noi un coordinamento complessivo delle tante iniziative pure presenti sul campo, e a Roma l'assenza del nostro governo si è fatta sentire, evidenzia Balestri. Io qua ho trovato anche un assente, che è l'istituzione, cioè il governo, che di per sé forse poteva dare un segnale proprio nel semestre in cui guida anche l'Europa, un segnale di attenzione anche rispetto a questa che è una manifestazione, un evento importante, ed è riguarda il calcio europeo, per cui il calcio europeo è un fatto sociale molto rilevante, insomma, per cui può condizionare il comportamento di molte persone. La UEFA e le sue federazioni membro si impegnano con la presente a raddoppiare i propri sforzi per erradicare il razzismo del calcio. Deben imponerse sanciones más estrictas a toda forma de comportamiento racista que afecte el juego. Sponda obbligata di ogni iniziativa che voglia arrivare realmente ad arginare le discriminazioni sui campi di calcio continentali è poi l'Unione Europea, che sul tema lavora a braccetto con l'UEFA. L'ex ministro Cécile Kyenge, ora europarlamentare. Noi a livello europeo, cioè, abbiamo già approvato una risoluzione del 2013, una risoluzione che ha messo insieme due direttive, una sulle discriminazioni e l'altra sull'integrazione per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, ma che include anche quello del lavorativo. E le due direttive di fatto dà pieno mandato all'Unione Europea attraverso il suo articolo 19 di poter sanzionare, di prendere delle iniziative, quindi sanzionare tutti individui oppure anche gruppi di persone che fanno atti discriminatori. Nello stesso tempo dà atto e mandato all'Unione Europea di poter promuovere delle iniziative appunto di buone pratiche sull'integrazione a livello sportivo. Questa noi lo porteremo avanti anche attraverso la Commissione e anche attraverso l'elaborazione di progetti promossi dall'Unione Europea. Facile individuare il modello a cui ispirarsi: la Germania, multietnica e campione del mondo. Ma sono tanti paesi, ma io ne nomino uno che ha vinto il mondiale, la Germania. Penso che basti avanza per tanti altri, perché ha vinto il mondiale attraverso una squadra che fa capire che la diversità, quando viene riconosciuta come una ricchezza, diventa veramente una risorsa. Nodo critico da sciogliere in Italia, quello della cittadinanza per i cosiddetti nuovi italiani, stigmatizza ancora Mauro Valeri. Penso che l'Unione Europea anche lì ci dovrebbe insegnare qualcosa. Noi siamo in ritardo perché siamo l'unico paese in Europa ad avere ancora una legge sulla cittadinanza basata sul diritto di sangue, quindi se un ragazzo nasce in Italia da due genitori stranieri, da noi è straniero, in altri paesi no. Questo è un problema, perché impedisce di fatto a tantissimi ragazzini di sperare di fare una carriera professionistica. È stato detto anche durante la giornata che questa è una discriminazione cosiddetta istituzionale, che il calcio dovrebbe farsi promotore, secondo me, proprio di una modifica anche della normativa